Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:20 minuti in punto. In questo momento, cari ascoltatori, eccoci qua pronti a leggere i giornali per voi e con voi. E se vi siete aggregati solo ora, come sempre vi dico benvenuti, debosciati d'Italia. No, ma lo dico con grande affetto perché noi qua ci svegliamo più prima, siamo in onda dalle 6:30 e vi vorrei con noi da prima, dalle 6:30. Fate quel che potete, eh. Intanto vi ricordo che parleremo più avanti con due direttori di giornali, del Fatto Quotidiano Antonio Padellaro, del giornale Alessandro Sallusti. Di che cosa? Beh, indovinate un po', della condanna a Silvio Berlusconi, che è il tema col quale aprono la maggior parte dei quotidiani che troverete oggi in edicola. Intanto andiamo a sfogliarli. Allora, è martedì 25 giugno, andiamo a sfogliare i giornali in edicola. Appunto, il Sole 24 Ore apre con un'altra notizia per la verità: sgravi ai neoassunti al sud, tetto di 650 euro al mese, la bozza del decreto legge sul lavoro che domani dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri. E poi ecco la carrellata di titoli sulla condanna a Berlusconi, condanna dura per Berlusconi, 7 anni, così apre il Corriere della Sera. Per Repubblica, Berlusconi, la condanna più dura. Il Fatto Quotidiano, 7 anni a Berlusconi, la vergogna è governare insieme a lui. La Stampa, 7 anni a Berlusconi, resisterò. Libero, giustizia a puttane, questo è il titolo di prima pagina. Il giornale, macelleria. Il Messaggero, 7 anni a Berlusconi, resisto. L'Unità, la condanna di Berlusconi. Il Secolo XIX gioca anche sulle analogie col Quirinale, il settennato di Berlusconi. Avvenire, una condanna che scotta. Questo è il titolo di prima pagina, mentre il manifesto Femme Fatale, questo è il titolo di prima pagina, e c'è la foto di una donna che esulta con striscione davanti al Tribunale di Milano. Allora, voglio però partire, prima della vicenda Berlusconi, da un'altra vicenda che anche ieri ha avuto un epilogo e lo raccontavamo ieri in rassegna stampa. Era abbastanza prevedibile che andasse a finire così. L'aria che tirava era quella. Josefa Idem è ex ministro della Repubblica Italiana. Ieri mattina lo avevamo proprio detto in rassegna stampa. Temo, avevo detto che, viste come sono andate le vicende, oggi avremo un ex ministro. E puntualmente si è avverato. Insomma, ieri c'è stato l'incontro. Josefa Idem ha incontrato per un'ora il premier Enrico Letta e dopo la vicenda di IMU, ICI, presunti abusi edili della casa palestra dove vive, ha vissuto, ha deciso di lasciare. Idem lascia, troppi insulti. Questo è il titolo a pagina 17 del Sole 24 Ore. Racconta Nicola Barone questa ora con Letta, poi la scelta. Tra l'altro ci sono alcune dichiarazioni ancora un pochino stonano un po', per esempio questa: volevo andarmene da giorni. Ma come volevo andarmene da giorni? Ma chi lo ha impedito? Verrebbe da dire. In ogni caso, racconta Nicola Barone, a quasi 2 mesi dall'insediamento il governo di Enrico Letta perde un pezzo. Per una storia di irregolarità fiscali ancora tutta da chiarire nei suoi dettagli, il ministro per le pari opportunità Josefa Idem si è dimessa dall'incarico. Non sono bastate le scuse pubbliche in conferenza stampa, non gli accorati appelli per essere giudicata alla stregua di qualsiasi altro cittadino colpevole di errore. Ancora in mattinata l'ex campionessa sembrava convinta a non mollare, poi il faccia a faccia con Enrico Letta e la comunicazione come ministro ho tenuto duro in questi giorni perché in tanti mi avevano detto che in questi momenti fanno parte del gioco. La persona Josefa Idem invece già da giorni si sarebbe dimessa a causa delle dimensioni mediatiche sproporzionate della vicenda e delle accuse aggressive e violente, nonché degli insulti espressi nei suoi confronti. Insomma, il Corriere della Sera a pagina 9 racconta la gara più difficile di Josefa, quei silenzi a Palazzo Chigi e l'uscita dalla scala posteriore. Alessandra Araki, che ieri ha intervistato quella che era ancora il ministro, racconta la giornata, l'incontro con Letta e poi l'uscita per evitare la stampa dalla porta posteriore di Palazzo Chigi. Anche per Repubblica, in un retroscena firma Alberto D'Argenio a pagina 13, c'è il resoconto della giornata di Josefa Idem, l'amarezza di Josefa, troppi insulti, ci ho provato ma non ce la facevo più, sono da poco e passate le 6 del pomeriggio, racconta Repubblica, e Josefa Idem lascia Palazzo Chigi blindata nella sua auto ministeriale. Se da un paio di giorni avanzava la sensazione che la sua permanenza al governo fosse destinata a sfociare nelle dimissioni, l'ex olimpionica, che scarta i cronisti, affondata nel sedile della sua auto, ne dava la conferma. Insomma, in questo faccia a faccia pare che Enrico Letta abbia detto a Josefa Idem, dopo aver capito che non c'era più da difendersi, sono amareggiato, addolorato, dispiaciuto di quanto accaduto, ma ti devi assumere le responsabilità, io non ti posso cacciare ma non ci sono più le condizioni perché tu possa svolgere con serenità il tuo incarico. Questo non cambia nulla della mia stima nei tuoi confronti. È finita così. Idem va da Letta e si dimette. Avevo deciso da giorni. Ecco, questa frase davvero un pochino suona bizzarra, quantomeno. Tra l'altro Mario Aiello, che è una penna anche molto fine nel raccontare quelle che sono gli umori e le sensazioni, racconta sul Messaggero a pagina 7 anche questa stortura, no? Ricordate Josefa Idem che arrivò il giuramento al Colle a piedi, ieri se n'è andata via invece con l'auto blu. Nella fotografia di gruppo, racconta Aiello, meno di 2 mesi fa, al giorno del giuramento, nelle sale del Quirinale, Josefa, la ministra che incarnava la purezza della competizione politica tradotta in politica, stava al fianco di Enrico Letta. Era arrivata la grande cerimonia camminando a piedi, dicendo «sono una cittadina semplice». Insieme al marito che la assunse come dipendente, ecco lei, la Idem, bella, bionda, molto sicura di sé, in seguito si sarebbe scoperto che nel suo caso la sicurezza è anche troppa, mamma perfetta, poco italiana perché tedesca, garanzia etica, passionale ma anche, autodefinizione, lucidamente politica, eccola lei. Josefa Idem è un ex ministro. I giornali del Mondo andarono in estasi per l'avvento governativo di Josefa. La Bild scrisse «porterà cambiamenti nella società italiana» e invece ha confermato dei tratti della società italiana, facendo cadere, oltre che se stessa, dimissionata ieri da Letta, un mito, almeno per quelli che ci credevano, quello della presunta virtuosità della società civile. Quando si è passati, e sono state sufficienti poche settimane, dall'estasi della campionessa come ministro, parole sue, al «a mia insaputa», la sottile, forse inesistente linea di demarcazione tra società civile e inciviltà politica è saltata brutalmente. Insomma, finisce la parabola politica di Josefa Idem, nulla invece macchia la sua straordinaria carriera da atleta, questa è intoccata e intoccabile certamente. Prima della pubblicità vi voglio raccontare ciò che Libero mette in pagina 20, e è una frase, è una dichiarazione molto discutibile di un cantante molto famoso, Robin Williams, ex di Take That. E giustamente Libero la mette come il titolo «Il delirio della star tossica». Sentite cosa ha detto Robbie Williams. «Mi farò assieme a mia figlia». Una dichiarazione shock, racconta Giordano Tedoldi, affidata alla rivista australiana New Magazine. Cosa ha detto Robbie Williams? Questo: «Dubito che mia figlia sarà come me. Tocchiamo ferro, aggiungiamoci un sacco d'amore, di fortuna, e lei eviterà che cosa? Le droghe. Se sfortunatamente però dovesse accadere, so cosa farò. Mi assicurerò che prenda le droghe migliori e me le farò con lei». No, ma questa è una dichiarazione incredibile, allucinante, per non dire allucinogena, di Robbie Williams. Questa dichiarazione: «se dovesse drogarsi, mi assicurerò che assuma le sostanze migliori e me le farò con me e con lei». Tra l'altro poi Libero racconta, è solo l'ultima di una lunga serie di VIP che sono stati un po' come dire devastati anche dalla famiglia. Si racconta di Robert Downey Jr., che un giorno raccontò nella vita: «mio padre si faceva le canne con me quando io avevo 6 anni, era l'unico modo per dimostrarmi amore». Oppure Drew Barrymore, o ancora Lindsay Lohan, insomma tutte persone che hanno avuto delle famiglie e degli esempi da questo punto di vista. Jamie Lee Curtis, non molto consoni, ma questa dichiarazione di Robbie Williams è davvero qualcosa di allucinante. Se mia figlia dovesse cadere nelle droghe, so cosa farò, mi assicurerò che prenda le droghe migliori e me le farò con lei. Il delirio della star tossica su Libero a pagina 20. Chi vincerà oggi il premio? La carta costa, l'articolo più inutile del giorno. Lo scopriremo più avanti, intanto la pubblicità. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, la notizia, come detto, con cui aprono praticamente tutti i giornali e dedicano a questa notizia 10, 12, chi 5, 6 pagine, insomma, è comunque una notizia che ha fatto anche il giro del mondo. Come sapete, è la condanna in primo grado a Silvio Berlusconi al Tribunale di Milano, 7 anni interdizione perpetua, questo era nel processo Ruby. Come racconta il Sole 24 Ore, a pagina 5, la cronaca di Angelo Mincuzzi, qualcuno intona l'inno di Mameli, qualcuno canta Bella Ciao, c'è chi alza al cielo un cartello con su scritto la legge uguale per tutti, poco più in là c'è Daniela Santanchè assediata da telecamere e fotografi che tuona, questa è una sentenza politica. Insomma, questo è l'epilogo. Ruby, Berlusconi condannato a 7 anni, questo è il titolo. Tra l'altro c'è un'interessante analisi del perché, ovviamente le motivazioni della sentenza verranno depositate, ma una prima ipotesi del perché si sia arrivati a questa condanna. Donatella Stasio: una telefonata valutata come un ordine, lo scavalco, così viene chiamato in gergo il verdetto del giudice che va oltre le richieste del pubblico ministero. Perché effettivamente la pubblica accusa aveva chiesto una pena inferiore rispetto a quella che poi è stata data dal collegio giudicante. Insomma, come è accaduto ieri nel processo Ruby, poiché il collegio del tribunale presieduto da Giulia Turri, da 2 giudici a latere, Carmen Delia e Orsola De Cristofaro, ha scavalcato le valutazioni e forse le aspettative della procura sull'entità della condanna, ma soprattutto sulla qualificazione del reato più grave, non già induzione indebita, prevista dall'articolo 319-4 del codice penale, ma concussione per costrizione, praticamente un colpo di scena che in pochi si aspettavano, racconta Donatella Stasio. È da ritenere per il tribunale che quella famosa telefonata fatta dal presidente del consiglio in carica nel cuore della notte per affidare Ruby in questo caso a Nicole Minetti, sia stata una pressione bella e buona, esplicita, fortissima, percepita come un ordine dai funzionari della questura. Quindi altro che induzione, reato peraltro incerto, ma si tratta proprio di una costrizione. Questa sarebbe stata l'interpretazione che ha portato a una condanna anche più alta rispetto a quella chiesta dalla procura. Ovviamente ci sono le reazioni politiche, la nota di Silvio Berlusconi, questo è un plotone d'esecuzione, titola il Corriere della Sera, pagina 3. Per la verità queste non sono parole messe nella nota, ma sono parole attribuite a Silvio Berlusconi. Così abbattuto forse non è stato mai, confortato dai figli, dalla compagna, da Ghedini, dai pochi che riescono a farsi ricevere in una giornata drammatica. Silvio Berlusconi parla di violenza, dice la sentenza nella nota, è una sentenza violenta. Ero veramente convinto che mi assolvessero, perché nei fatti non c'era davvero alcuna possibilità di condanna, invece è stata emessa una sentenza incredibile, di una violenza mai vista né sentita prima, per cercare di eliminarmi dalla vita politica di questo paese. Interviene anche Marina Berlusconi, uno dei figli. Non pretendo che tutti conoscano mio padre dal lato umano come lo conosco io, ma posso assicurare che questa condanna è assurda. Quello di cui l'accusano, lo dico con tanta rabbia e lacrime agli occhi, è quanto di più lontano e contrario dall'uomo che è. Questo invece è quello che ha detto Pier Silvio Berlusconi, l'altro figlio. È chiaro che ora tutti hanno gli occhi puntati a capire cosa succederà. Prima ci sono tanti commenti, 2 ben di taglio e di tenore ben diverso. Ezio Mauro, direttore di Repubblica, il titolo di prima pagina dell'editoriale è "L'abuso e la dismisura". Si chiede, Ezio Mauro, Un'Italia compiacente, intimidita, si chiede ora cosa succederà dopo la sentenza sul caso Ruby che condanna in primo grado Berlusconi a 7 anni di reclusione e interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nessuno si pone invece la vera domanda: cos'è successo prima per arrivare a una sentenza di questo genere? Cos'è accaduto davvero negli ultimi 20 anni in questo sciagurato paese, nell'ombra di un potere smisurato, fuori da ogni controllo, che concepiva se stesso come onnipotente ed eterno? Come è potuto accadere tutto ciò in mezzo all'Europa e negli anni 2000? Questa è la domanda molto forte e provocatoria con cui inizia l'editoriale Ezio Mauro, mentre invece Giuliano Ferrara sul Foglio lancia un'iniziativa che ha il titolo Siamo tutti puttane, ed è un appello a intervenire stasera a Piazza Farnese a Roma alle ore 19. No all'ingiustizia puritana, scrive Ferrara. Se ti piace invitare giovani donne a casa tua coi tuoi amici, magari un po' puzzoni o buzziconi, se ti prende il ghiribizzo di raccomandare per telefono esponendoti direttamente a un trattamento umano per una di loro incappata in una disavventura trattenuta in questura, allora meriti la distruzione politica, mediatica e giudiziaria, la gogna e la galera, la paralisi del tuo essere persona e cittadino a vita. Così il tribunale delle Erinni ha malmenato la giustizia, il senso comune, la prudenza, la saggezza del giudicare, con l'effetto di una sentenza ad personam intinta nel pregiudizio antropologico e politico, in un paese in cui la legge e il giudice blocco della bocca della legge furono calpestati da folle urlanti in nome del pregiudizio di genere. Dal momento di questa sentenza, conclude Ferrara, viviamo in un paese meno libero. Il destino di Berlusconi, fin da quando si mise a fare politica nell'anno sciagurato del terrore giustizialista, è quello testimoniare, tra molti equivoci e notori difetti, l'identificazione della sua libertà privata, da sempre in sospetto nell'Italia parruccone ideologica, con la libertà pubblica. Per questo, stasera, Piazza Farnese, Roma, ore 19. Questo è l'appello di Ferrara, che poi fa anche, all'interno c'è proprio lo slogan, un manifesto, siamo tutti puttane, protestiamo contro l'ingiustizia penale, il moralismo acido, ipocrita, l'abuso politico, mediatico e giudiziario. C'è anche un vincino che prima era con noi alle 6:30 e fa questo disegno straordinario con proprio Giuliano Ferrara di rosso barbuto, agghindato come una prostitutazza d'alto bordo in tacchi a spillo. Vabbè, che cosa succederà? Beh, oggi in teoria c'è l'incontro tra Enrico Letta e Berlusconi. Ieri è uscita questa nota dell'ANSA: Enrico Letta nel giro di 2 giorni vedrà i leader dei partiti della maggioranza. Quindi ha visto, credo, ieri Monti. Stasera Berlusconi, dovrebbero vedersi faccia a faccia. E che si diranno? E soprattutto Berlusconi andrà. E che dirà Berlusconi? Carmelo Lopapa racconta su Repubblica che il cavaliere è pronto ad alzare il prezzo sulla giustizia, riforma o il governo non va lontano. Che succede, scrive Carmelo Lopapa in questo retroscena di Repubblica, se Berlusconi si presenta stasera e alza il prezzo sulla giustizia? Secondo invece un altro retroscena di Repubblica, è un Enrico Letta che dice a questo punto chissà che succede, nel senso che aumenteranno la pressione dal Popolo della Libertà su IMU e IVA, sulle questioni economiche, per cercare di alzare comunque la tensione su questo. Che succederà? Questo è il retroscena di Francesco Bego, Freddo De Marchis, che trovate a pagina 9 di Repubblica. Letta assediato, il PDL attaccherà sull'IVA perché sa che al salvacondotto direi di no. Oggi comunque l'incontro del cavaliere, anche Mario Mauro, che è uno dei ministri, ministro della difesa, dice l'esecutivo a rischio. La domanda che tutti si pongono è questa sentenza, nonostante le dichiarazioni ufficiali, cioè il governo non rischia, porterà a una fibrillazione all'interno del governo? Anche Francesco Verderami, notista politico del Corriere della Sera, sotto il titolo C'è chi evoca le elezioni e il premier punta su IMU e IVA, fa capire che certamente sui temi economici ora ci sarà un alzare un po' l'asticella delle dichiarazioni. Letta sa, scrive Verderami, che la sentenza di condanna per Berlusconi è una sentenza che forse condanna anche il suo governo. Non è su IVA e IMU che potrebbe cadere, se è vero che nel giro di consultazioni il premier ha spiegato che esistono le condizioni per intervenire su questi due temi. Ma il punto è un altro: il terno al lotto, così lo definisce Letta, a cui sono legate le sorti delle larghe intese, è dettato da fattori esterni alle dinamiche di governo. governo, dalle reazioni di Berlusconi alle decisioni del Tribunale di Milano, dal disgusto del Cavaliere verso tutto e tutti, che ieri pomeriggio l'ha portata a meditare perfino l'addio da tutto e tutti. Intanto i protagonisti, Ruby, secondo la stampa, è in Messico. Nicole Minetti, secondo Libero, pagina 45, immortalata da alcune foto dei giorni scorsi, era in una discoteca nel Bergamasco, in Val Seriana, è stata tre quarti d'ora al cachet di 100 euro al minuto, 44.500 euro per 45 minuti. Mentre Emilio Fede, intervistato dai vari giornali, dice alla lettura della sentenza «Ho pianto» e pare che fosse ieri il compleanno di Emilio Fede. Insomma, dove sono tutti i protagonisti? L'avete sentito un po' sparsi. Chiudo questa pagina con la battuta di Gene Gnocchi in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport. Il rompipallone. Allegri commenta la sentenza. Berlusconi: speravo che gli dessero anche l'interdizione da Milanello, ma così pare non sia, e allora il traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Vabbè, poi della sentenza Ruby, di tutte le implicazioni politiche, parleremo alle 8:15 con i nostri ospiti, il direttore del giornale Sallusti, il direttore del Fatto Quotidiano Antonio Padellaro. C'è da dire che soprattutto vorrei anche gli ascoltatori si concentrassero col numero verde 800 24 0024, al di là del becero tifo, di capire che reazioni secondo voi ci potranno essere, che conseguenze ci potranno essere anche sulla tenuta di governo, insomma su quello che può accadere dopo questa sentenza, l'ulteriore sentenza di condanna, seppure non definitiva, dopo l'appello nel processo di diritti Mediaset, la condanna a 4 anni a Berlusconi. Allora, la politica è il Movimento 5 Stelle. Ieri ha vissuto una giornata di positiva perché hanno conquistato Ragusa, ma allo stesso tempo hanno perso un pezzo al Parlamento. Se n'è andato il senatore Adriano Zaccagnini. Era una delle persone più chiacchierate, messe tra i dissidenti, intervistato da Tommaso Ciriaco su Repubblica, pagina 15. Un altro deputato se ne va, dice: il Movimento 5 Stelle è un Berlusconi 2.0. Me ne vado, il prossimo giura Repubblica sarà Alessio Tacconi, dovrebbe seguirlo, e quindi per ora sono 6 quelli che se ne sono andati, ma potrebbero diventare 7. Diranno che se ne va per la diaria, chiede Ciriaco. Lo so, ma non è così, io ho già fatto il bonifico, ho consegnato la richiesta di adesione al gruppo misto, ho fatto il bonifico, 2 mesi e mezzo, 8.500 euro restituiti. Non mi è piaciuta l'intervista che Gianroberto Casaleggio ha fatto, c'è stata la prima volta, ha fatto un'intervista sul Corriere della Sera domenica, non mi è piaciuta, ha detto qualche cosa giusta, ma ha fatto un passaggio sul vincolo di mandato, cose e tesi che portavano avanti gli eversivi e i piduisti. A quel punto ho detto scappo via di corsa. Si riferisce Zaccagnini a che cosa? Un'intervista nella quale Casaleggio ha detto, effettivamente una cosa delirante anche a mio modo di vedere, ci dovrebbe essere la possibilità per ritirare il mandato dei parlamentari con un referendum locale se i parlamentari, anche se non è finito la legislatura, non hanno rispettato le promesse fatte, e quindi la possibilità di sfiduciare e ritirare i parlamentari del Parlamento con referendum locali. Ecco, questo sul vincolo di mandato per Zaccagnini sono cose che dicevano i piduisti, e quindi me ne vado dal Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle che invece viene ora blandito da Ignazio Marino, sindaco di Roma, che ha qualche difficoltà nel formare la giunta, non l'ha ancora formata. E la mossa di Marino è questo: cari del Movimento 5 Stelle, dateci un nome, forniteci un nome, nello specifico una donna, da indicare come assessore per la sicurezza e la legalità urbana. C'è da dire che ha fatto anche abbastanza ironia sui giornali il fatto che ci sarà un assessore che si occuperà, tra le altre deleghe, degli stili di vita, l'assessore agli stili di vita del comune di Roma Capitale. una cosa che effettivamente è un po' bizzarra, però non è che assessore agli stili, credo che sia accorpato con lo sport, forse i giovani e gli stili di vita. La questione politica è anche legata alla questione economica. C'è una diatriba sulla politica che vede coinvolto anche e soprattutto il Partito Democratico sulla questione degli F-35, i famosi cacciabombardieri che dovremo acquistare nei prossimi anni. Perché? Perché il Partito Democratico si è spaccato su questo tema. Alcuni deputati, per la precisione 14 del PD, hanno votato la mozione portata avanti da Sell e dal Movimento 5 Stelle, dunque, e anche 14 deputati del PD. Infatti il manifesto titola F-35, il volo forse è sospeso, oggi il voto sulla mozione di Sell e 5 Stelle, il PD alle prese con una mediazione interna, si chiama così, mediazione interna, quando un partito si spacca su un tema. Anche il Messaggero a pagina 9, caccia F-35 sull'acquisto, nuova spaccatura nel PD, l'esecutivo ora è in allarme. In ogni caso, dal punto di vista economico, la notizia del giorno sicuramente è quella anticipata dal Sole 24 Ore, vale a dire le novità e le misure per il lavoro che dovrebbero approdare domani in Consiglio dei Ministri. La decontribuzione, vale a dire decontribuzione per assumere giovani nel meridione tra i 18 e i 29 anni, con un tetto all'incentivo che non può superare l'importo di 650 euro per lavoratore. Questa è una delle ipotesi per favorire le assunzioni stabili per i giovani al sud, e cioè dare degli sgravi per l'assunzione, una contribuzione per gli sgravi e l'assunzione di giovani al sud. Il tetto è questo, 650 euro mensili all'incentivo per le imprese. È una delle ipotesi della bozza del decreto che viene anticipata, trovate tutti i dettagli a pagina 3 del Sole 24 Ore. C'è quello che viene anticipato, è stato detto dai giornali varie volte, cioè che i contratti a tempo vedranno un margine, un intervallo portato da 60 giorni attuali della legge Fornero a 10-20 giorni per il rinnovo dei contratti a termine, e quindi una finestra più bassa per favorire una maggiore occupazione, e poi altri dettagli sulla Youth Guarantee che trovate appunto sul Sole a pagina 3. E poi, cari italiani, c'è la questione dell'IVA, molto dibattuta. Per Libero, domani è il giorno, il tempo scaduto, o si ferma l'IVA domani o mai più. Per la verità il primo luglio è un po' più avanti, ma tempi tecnici fanno capire che bisogna trovare le risorse in fretta. E come racconta la stampa, come si fa per trovare le risorse? È semplice, no? Per scongiurare l'aumento di una tassa. Si mettono nuove tasse, ma è banale, ma è ovvio. Pare che siano in arrivo le tasse sugli alcolici e le sigarette, dove si va a sigaretta elettronica, più tasse su alcolici e sigaretta elettronica per fermare l'IVA. Pagina 11 della stampa, è così. E come si fa a scongiurare l'aumento di una tassa? Si mettono altre tasse. E voilà! E allora siamo qui al premio La Carta Costa, l'articolo più inutile del giorno. C'è da dire che a corollario di una notizia invece che tutti i giornali mettono, c'è la morte di Gigi Rizzi, il più noto playboy degli anni 60, no? Brigitte Bardot. Ma eccola qui la mappa di Michela Proietti sul Corriere della Sera, a pagina 29, mezza pagina, sui nuovi playboy. E chi sono? Gianluca Passi, il nobile Gianluca Passi, con Jessica Chastain, oppure Alex Delal, chissà se questo è il nome giusto, Giuseppe Cipriani e le sue feste a Patmos e Mykonos in Costa Smeralda, e poi Stavros Niarchos, chi non lo conosce, il nuovo playboy che fu anche picchiato a sangue nel 2007 da un uomo perché aveva allungato gli occhi sulla sua amica. Fiori, feste esclusive, ecco chi sono i nuovi seduttori, i nuovi playboy. Come mancare questo articolo, cari amici del Corriere? La Carta Costa! Prima di fare questi articoli, pensiamoci quattro volte. È tempo di giornale radio.